Ma perché realizza perfettamente il colore brunito del nord, il mistero realizzato così bene con un'orchestrazione molto sapiente, quindi colori cupi, passioni, l'ambientazione nordica appunto nella Scozia medievale di Walter Scott, e perché ovviamente c'è un lirismo che viene profuso abbondantemente, un lirismo tipicamente donizettiano. Ecco, qual è la grandezza per lei di Donizetti? Direi che in fin dei conti, alla fin fine, si tratta di qualcosa di un musicista che è un po' ineffabile, difficile da cogliere, almeno secondo me, perché chiaramente si tratta di un compositore romantico che è in parte debitore di Rossini, in parte anticipa Verdi, però è un compositore che ha una personalità che però è alle volte un po' difficile da cogliere, da realizzare. Senz'altro, come ripeto, a differenza di Rossini, che invece era un compositore neoclassico che si trovò a vivere all'inizio dell'età romantica e quindi aveva una sensibilità pre-romantica, Donizetti è senz'altro un compositore romantico a tutti gli effetti. Realizza questo suo romanticismo però non come farà in seguito Verdi, quindi dandosi totalmente con tutte le passioni, con un impegno politico, lo realizza a modo suo, questa sua caratteristica appunto di essere un po' ineffabile, difficile da cogliere. Cioè. Ecco appunto, allora quanto ha inciso la follia di Donizetti? Noi abbiamo raccontato nella nostra storia quando si è ammalato e poi è stato rinchiuso in un manicomio alla fine poi della sua vita, sulla sua composizione, sull'opera di Gaetano Donizetti. Questo è un po' difficile da dire, senz'altro ci sono, direi, delle asimmetrie in Donizetti, sono caratteristiche tipiche sue, a differenza appunto di Rossini, che invece è un compositore dove le simmetrie rispecchiano appunto la sua formazione neoclassica e quindi derivata dall'illuminismo. Donizetti invece, in modo tipicamente romantico, punta più verso delle asimmetrie, delle linee oblique, e sicuramente queste sono anche dovute alla sua condizione psichica, e questo penso che sia così, però se si riferisce, quando si parla di pazzia, alle volte per Donizetti si è immediatamente propensi a pensare a quante scene di pazzia ci sono nelle sue opere, naturalmente Lucia è la più celebre, certo, di tutte, quello non credo che sia dovuto alla sua condizione personale, quella era un po' una delle caratteristiche dell'epoca. Domani ci sarà l'ultima rappresentazione del Maometto II di Rossini al Teatro dell'Opera di Roma, da lei diretto. La prossima opera? La prossima opera sarà di Donizetti, La Favorite, cioè la versione originale francese, al Festival di Salisburgo il mese di agosto. Cosa le ha lasciato suo zio Claudio Abbado? Ma sa, ci sono delle cose che sono tipicamente familiari, che appartengono anche a me, cioè c'è una formazione molto rigorosa, una devozione molto alta la musica, e queste sono cose che poi con Claudio, seguendo il suo esempio, naturalmente ho potuto anche incrementare ancora, ecco, perché Claudio era una persona molto devota alla musica, con un amore immenso e con un grande rigore morale in quello che faceva musicalmente. A parte questo, ovviamente ci sono tante altre cose, il suo insegnamento principale era quello che poi ripeteva più frequentemente ai suoi musicisti, quello di ascoltare, imparare ad ascoltare, questa è la cosa più importante, e anzi in definitiva è la cosa più importante che la musica può dare a chiunque, qualunque essere umano. Per far musica dobbiamo ascoltarci fra di noi, e lui sosteneva che nella vita dobbiamo imparare ad ascoltarci. Ecco, e questo è inteso in senso molto lato. Grazie. Ma di nulla.